Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sedetevi sul divano, accendete la televisione, prendete in mano il telecomando e provate a cambiare canale. In qualsiasi momento della giornata sentirete qualcosa che fa più o meno così. La mettiamo su noi anche sulla rissa, perché mi tu hai dato dell'ignorante. No, non è perché scusi, uno non io non gli ho dato dell'ignorante, gli ho detto che doveva fare una domanda intelligente. Tu conosci quella... Mi dica, scusi, allora, prego, vorrei sentire cosa allora, dice. Allora, io no, vorrei sapere, sì. Lamberto, cosa ne pensi? No, allora, no, no, perché siccome abbiamo... No. Di tanto io non sono venuta a farmi interrogare. No, io voglio sapere a che titolo, Alessandro. Sto facendo dei giudizi offensivi. A che titolo, Alessandro? Tra che titolo parla questo? Alessandro, chi è? Quando tu parli con me, ascoltami, perché io sono molto agitata. Sì. Non mi urli in questa maniera e non sbatti le mani in questa maniera. Tu puoi permetterti o no? Tu chi sei? Io non mi sto permettendo. Tu ti permetti? No, io non mi sto permettendo. Io non mi sto permettendo. Ti devi calmare. Intelligente di fai schifo, sei un ragazzo. Ma la parte di un cretino. Oh, zitta. Oh, brutta cretina. La televisione nasce come un'evoluzione della radio, insieme alla quale si sviluppa parallelamente in diversi paesi tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso. Sono solo le prime timide sperimentazioni. Bisognerà aspettare la fine della guerra perché la scatola magica entri effettivamente nelle case, a partire da quelle più benestanti, che vivono nelle grandi città. Si capisce subito che rispetto a stampa e radio è più semplice ed immediata. Un veicolo altamente comunicativo. Lo spettatore riceve immagini di benessere e consumo e viene così educato a nuovi stili di vita urbana. Lava, sciacqua e asciuga a regola d'arte. Candy Automatic 3 e per la famiglia numerosa Candy Automatic 5. 8 programmi automatici dal bucato grosso ai capi più fini. Con la sospensione bilanciata la centrifuga gira più velocemente e asciuga di più. Ben presto la TV è già in grado di interferire con i momenti di ognuno, da quelli privati a quelli pubblici e politici. Quando cambia la società, la televisione la segue e spesso la anticipa con spettacolarità, violenza e il racconto di storie comuni. Per la sua potenza comunicativa è fin dalle origini che si dibatte sul suo uso. Da un lato le vengono riconosciuti cultura e valore mediatico, dall'altro le si imputa l'offuscamento della capacità critica del pubblico, che si vedrebbe vincolato nelle sue scelte. Su questa linea, negli anni 70, c'è anche Pierpaolo Pasolini. Di fronte all'ingenuità, diciamo, o alle sprovvedutezze di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Pasolini si era già accorto che i giovani di borgata avevano iniziato a vestirsi, comportarsi e a pensare allo stesso modo. Se prima si poteva riconoscere un proletario da un borghese, oppure un comunista da un fascista, adesso non era più possibile. Un'omologazione pericolosa, che ancora non aveva visto gli anni della televisione commerciale, ma nella quale evidentemente si intravedevano i semi di quello che saremmo diventati. Negli stessi anni, il filosofo austriaco Karl Popper, autore di Cattiva maestra televisione, giunge a una conclusione ancora più estrema, apocalittica, per dirla come Umberto Eco. Il piccolo schermo, secondo il suo punto di vista, ha un potere incontrollato, in grado di immettere nella società ingenti dosi di violenza. Tanto che tutti i bambini, seguendo determinati modelli, crescerebbero come piccoli criminali. Per questo motivo ipotizza che ci vorrebbe una patente per fare la televisione. Una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione. O più precisamente, non può esistere a lungo fino a quando il potere della televisione non sarà pienamente scoperto. Dico così perché anche i nemici della democrazia non sono ancora del tutto consapevoli del potere della televisione. Ma quando si saranno resi conto fino in fondo di quello che possono fare, la useranno in tutti i modi, anche nelle situazioni più pericolose. Però allora sarà troppo tardi. Focus. Il dibattito sui mezzi di comunicazione, e in particolare sulla televisione nel corso degli anni 70, è accesissimo. C'è chi ne riconosce il valore sociale, il suo ruolo di aggregazione, ma sempre più intellettuali si allarmano di fronte a una possibile deriva mediatica. Ed è proprio in questo contesto che a un regista già affermato viene l'idea di farci un film, una parodia senza sconti al mondo della televisione, ma data avanti quotidianamente da personaggi cinici e senza la minima moralità. La televisione non è la verità! La televisione è un maledetto parco di divertimenti! La televisione è un circo, un carnevale! Una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leone e giocatori di calcio! Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere! Fronte spaziosa, occhiali con la montatura decisa, risata irriverente, poca inclinazione alla visibilità. Il suo nome è Sidney Lumet. Sidney Lumet. Se Sidney Lumet conosce così a fondo i meccanismi dello spettacolo, è perché in quell'ambiente ci è cresciuto. Suo padre è l'attore Baruch Lumet, sua madre la ballerina Eugenia Vermus. Sembra quasi ovvio per lui, viste le premesse, debuttare a soli 4 anni, nel 1928, allo Yiddish Art Theater di New York. E questa è la città che si porterà nel cuore per sempre, nonostante sia nato a Filadelfia, nonostante gli venga consigliato di trasferirsi a Los Angeles per stare a contatto con Hollywood. Le location sono uno dei personaggi dei miei film. E questa città è l'unica capace di essere personaggio essa stessa, comunicando l'atmosfera ed il tono che cerco. New York e Los Angeles hanno due impronte completamente diverse. Se la prima con i suoi grattacieli è protesa verso l'alto, la seconda, ville basse e larghi viali, fa perdere la percezione dei suoi confini. Due sigle per due mondi, NY e LA. Uno tradizionalmente colto, all'avanguardia, amante dell'arte e dello stile, l'altro più frivolo, leggero, mondano. Scegliere tra New York e Los Angeles significa legarsi a un immaginario, come ha fatto Woody Allen, che nella sua Manhattan in bianco e nero ha visto la miglior culla per le sue nevrosi metropolitane. Lo stesso vale per Lumet, che rifiuta Los Angeles perché ne avverte la finzione dell'apparire. Incomincia studiando alla Professional Children's School e la alterna con piccole prove da attore che lo fanno approdare a Broadway, dove ottiene parti in numerosi copioni. Gli piace stare sul palcoscenico, è a suo agio quando fa le prove costumi e chiacchiera con tutti gli operatori, ma in testa ha troppe idee per non prendere in mano la situazione. La sua strada sembra segnata. Vuole raccontare storie da dietro la cinepresa. Non sono mai stato un idealista. Io so che l'arte non serve a cambiare le cose. Ho sempre pensato, però, che il cinema debba spingere lo spettatore a porsi domande, a esaminare la realtà da diversi punti di vista, a muovere i pensieri. Quando finisce la guerra, per il grande cinema americano, da sempre rigoglioso, non è un momento particolarmente felice. O meglio, non lo è per gli studios, che vedono calare gli spettatori medi settimanali da 98 milioni a 47 milioni nel 1957, costringendo alla chiusura di circa 4.000 sale. Addirittura una delle cinque grandi, la RKO, passa in mani diverse, incluso quelle di Howard Hughes, per poi fallire definitivamente sempre nel 1957. Il rovescio della medaglia è che con meno film prodotti dagli studios c'è più spazio per gli indipendenti, che mettono in atto una serie di buone strategie. Per esempio, ogni film è un pacchetto, si assume il personale necessario per quello e poi si chiudono i contratti. È inutile tenere personale fisso quando può essere chiamato di volta in volta. Ma soprattutto, non ha più senso fare film per famiglie. Bisogna concentrarsi su target, settori specifici della popolazione, come i teenager. Nascono così i drive-in, meno costosi rispetto alle sale classiche, dove le coppiette di adolescenti si appartano con la complicità del buio e parallelamente fioriscono i cinema d'essai, dove è possibile vedere quei film di importazione ai quali finalmente viene lasciata qualche possibilità. È proprio in una di queste sale d'essai che un giorno Sidney Lumet si siede, si accende una sigaretta e mentre scorrono i titoli di testa intima al ragazzo davanti a lui che sta chiacchierando con la fidanzata di fare silenzio. Stanno dando Ladri di biciclette di De Sica e anche se è sottotitolato vuole essere certo di non perdersi nulla. Pietro, prendi a zambe e va a Montesacro, aspettamela. c'è da fare? Muovete! Al ladro! Acchiappatelo! Al ladro! Lascia sta, lascio vedere. E mo me la cico qui. Non voglio impicci, lascio sta. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì. Ma se era per mettere ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Ma va, tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manna. Ispirato dal neorealismo, Lumet, dopo aver diretto alcune produzioni per la televisione, decide di dedicarsi alla sua prima pellicola. Si tratta di La parola ai giurati, con l'amico Henry Fonda, che racconta la camera di consiglio newyorkese, composta di 12 giurati americani, alle prese non solo con un difficile caso giudiziario di parricidio, ma anche con i loro pregiudizi di stampo razzista. I temi sono ambiziosi: razzismo, violazione dei diritti civili, necessità di osservare la realtà senza pregiudizi e il rischio di fare flop leggendo il copione è molto alto. Ma la mano del regista fa un lavoro per cui la critica grida già al capolavoro, perché di fatto mette in scena un thriller che cattura fin dal primo momento. Il cinema è un mezzo potente. Così come Ladri di biciclette ha convinto Lumet a diventare regista, Sonia Sotomayor, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nominata da Obama, ha dichiarato che La parola ai giurati è stata la molla decisiva delle sue scelte. Attraverso la finestra aperta vide il ragazzo che pugnalava suo padre. Non le basta questo? No. Però questo tipo è straordinario, è come rivolgerci a un muro. La donna disse di aver veduto commettere l'assassinio attraverso i finestrini di un treno che passava. Il treno portava 6 vetture. Lei vide la scena attraverso le ultime 2. Ricordi i particolari più insignificanti. Come può ancora negarlo? Nessuno di voi ha idea di quanto ci metta a passare... Non è un gioco questo. Esce La parola ai giurati. È un successo strepitoso. Inizia una pioggia di premi internazionali, tra cui l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e una nomination agli Oscar. Nella pellicola già si intravede l'idea di cinema che Sidney Lumet porterà avanti per tutta la sua vita. Io intendo il cinema come uno strumento che risveglia le coscienze. È per questo che mi interessa raccontare i poveracci, il disonore, i criminali. In un mondo luccicante come quello del grande cinema americano, dove conta più l'apparire dell'essere e le relazioni sociali più che le effettive capacità, il regista che si aggrappa a New York con tutto se stesso è l'esatto contrario. Innanzitutto è un tecnico. Si è fatto le ossa sui palcoscenici di Broadway e negli studi televisivi delle maggiori emittenti. Conosce perfettamente come funziona una macchina da presa, al punto da essere capace di aggiustarla quando si rompe, mentre nella logica consumistica di solito gli altri scelgono semplicemente di chiederne una nuova alla produzione. Non va alle feste, neanche quando i grandi divi cominciano a invitarlo nella speranza che ne salti fuori un ingaggio. Preferisce godersi Manhattan e il suo quartiere, dove il macellaio sa come si chiama, e nella drogheria gestita dai fratelli italo-americani. Gli chiedono se a casa stanno tutti bene, anziché se ha già dato a qualcuno la parte di un protagonista. Il suo è un modo di intendere il cinema come arte pura, al di là di tutto il carrozzone che ci sta intorno. Ed è in gran parte per questa sua riluttanza ad aderire al sistema, se ad Hollywood gli hanno fatto penare l'Oscar, che arriverà soltanto nel 2005, come coronamento di una carriera. Volevo quella statuetta, dannazione, e sentivo anche di meritarla. Il grande obiettivo di Lumet, in perfetta linea con il suo basso profilo, è farsi più piccolo per esaltare invece l'attore, per farlo spiccare con tutte le sue qualità. Dai suoi interpreti pretende il massimo, ma li lascia anche molto liberi, con la conseguenza che loro, gli attori, non sentono pressioni e possono davvero esprimersi. Come quando, nel 1959, dirige una splendida Sophia Loren in Quel tipo di donna, o l'anno dopo, quando in Pelle di serpente, tratto da una commedia di Tennessee Williams, Anna Magnani e Marlon Brando riescono a dare il meglio di loro. Che cosa sente? La sua mano. Esatto. È la forma delle mie dita. È il calore della mia pelle. Ma cosa vuol dimostrare? Che è così che ci conosciamo noi. Niente di più di ciò che è alla superficie. Perché mi dice queste cose? Proprio stasera? Perché non riusciremo mai a comunicare uno con l'altro. Siamo tutti come dei condannati alla segregazione cellulare, chiusi dentro la solitudine della nostra pelle per tutto il tempo che stiamo su questa terra. Le nuove tecnologie a volte spaventano quando si è abituati a lavorare in un certo modo, ma non è il caso di Lumet, che coglie ogni progresso come una sfida e vuole sperimentare in prima persona. È affascinato dal futuro e si interroga costantemente sulla deriva del mondo. Raffinato pensatore, ma anche uomo molto pratico, che non si tira indietro quando c'è da rimboccarsi le maniche, sul set sa fare tutto. A guidarlo, più che una smania di controllo maniacale, è la voglia di collaborazione per ottenere tutti insieme un buon risultato. E così, quando serve, sale su una scala e mostra al direttore della fotografia come vuole le luci. Parla a lungo con le costumiste per far capire loro esattamente cosa ha in testa. Segue la post-produzione in ogni sua fase per suggerire il montaggio migliore. Non che non si fidi, è anche un uomo che sa delegare. Semplicemente ci tiene all'unità di un progetto che comunque è nato da lui e che vuole portare avanti con coerenza. Mentre l'obiettivo di tutti i film è quello di intrattenere, il mio modo di fare cinema punta a qualcosa di diverso, che io credo vada un passo più in là. Obbliga lo spettatore ad esaminare una faccia o l'altra della sua coscienza. Stimola la riflessione e consente ai succhi mentali di mettersi in moto. 1962, uno sguardo dal ponte, tratto da Arthur Miller. L'emigrato italiano Eddie Carbone, puntuale e newyorkese, vive a Brooklyn con la moglie Beatrice e la nipote diciottenne Catherine, di cui è morbosamente geloso. 1964. L'uomo del banco dei pegni. La prima apparizione sul grande schermo del futuro premio Oscar Morgan Freeman. 1966. Chiamata per il morto. Ispirato all'omonimo libro di John le Carré. Charles Dobbs è un colto funzionario del controspionaggio britannico che in piena guerra fredda deve indagare sul comunismo giovanile di un alto funzionario del Foreign Office. 1972, Spirale d'odio, dal dramma teatrale di Robert Marasco Child's Play. Forte, il tema della manipolazione, tanto caro a Lumet. 1973, Serpico, tratto da una storia vera. Frank Serpico, poliziotto italo-americano in servizio nel Dipartimento di Polizia di New York dal 1959 al 1972, interpretato da Al Pacino, scopre e denuncia un diffuso caso di corruzione fra i suoi colleghi ufficiali, dopo che da loro era stato ghettizzato e minacciato in modo pesante. Sei in arresto. Mazzo, sembravi uno desti drogati. Tira fuori il biglietto che hai messo in tasca. Ho capito, eh? No, non credo. Che è questo? Che vuoi fare? Metti via, sennò ti guai peggio. Dammi le chiavi della macchina. Da? Ma dove te ne vanno nascosta a te? Vieni con me che te lo dico, vieni. Ci sono anche Assassinio sull'Orient Express e Quel pomeriggio di un giorno da cani. I film di Sidney Lumet sono molti di più di quelli che avete appena sentito, tutti diversi, ma con la denuncia civile che fa da filo conduttore. Sono gli anni 70, gli anni dell'impegno, ma anche gli anni in cui la televisione sta diventando un potere e viene indicato come responsabile della manipolazione collettiva. Impossibile per uno come Lumet far finta di niente. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a New York, la grande protagonista dei film di Sidney Lumet, che nonostante sia ormai un grande del cinema, non ci pensa proprio a trasferirsi a Los Angeles. Quello che vuole raccontare è una realtà metropolitana non edulcorata, non quell'America che si vede sulle copertine delle riviste patinate. Lumet non ha l'ambizione di cambiare il mondo attraverso l'arte, è troppo pragmatico per pensarlo, però è sinceramente convinto che le sue storie debbano smuovere le coscienze. Per il suo scopo si fa volentieri da parte e lascia che siano gli attori a esprimere ciò che hanno in testa. I grandi interpreti recitano tirando fuori la loro anima. Questo li rende davvero speciali. Pacino lo faceva sempre. Se aveva una scena in cui doveva perdere completamente il controllo di sé, era capace di restare in quello stato per un'intera giornata sul set. Per lui era una vera agonia. Adesso è il 1975 e Sidney Lumet ha in testa un'ossessione. Vuole realizzare un film ambizioso che parli della televisione e del potere che gestisce. Dopo aver letto il soggetto scritto da Paddy Chayefsky, non riesce a pensare ad altro. Mentre sta alla finestra del suo appartamento e sotto di lui la gente sfila indifferente e veloce verso qualche appuntamento newyorkese. L'idea di partenza è una bomba. Un famoso anchorman in calo di popolarità annuncia il suo imminente suicidio in diretta e una giornalista cinica cerca di sfruttare fino in fondo quella che chissà se è solo una provocazione. Due, via Howard. Signore e signori, vorrei a questo punto annunciare che io sarò costretto ad abbandonare questo programma fra due settimane perché ho un basso indice, dato che questa era l'unica cosa che mi dava soddisfazione nella vita. Ho deciso di suicidarmi. E lei che ha detto? Mi farò saltare le cervella durante questo programma. Fra una settimana. Pubblicità fra 10 secondi. Quindi, martedì prossimo, mettetevi in ascolto. Le pubbliche relazioni avranno una settimana per promuovere lo spettacolo. L'indice d'ascolto dovrebbe salire alle stelle. 50 punti, almeno. Pronti per la pubblicità, via. Sta per nascere Network, che in italiano è tradotto con Quinto Potere. Per il ruolo di Howard Beale è perfetto Peter Finch, che ha la tempra giusta e nel suo percorso ha già preso parte a 33 pellicole. Ma quale attrice è in grado di interpretare una donna avvenente e senza scrupoli in un periodo storico ancora lontano dal carrierismo a tutti i costi diventato in voga nel decennio successivo? Ci vuole una che sia bella senza essere una sex symbol, una tipa tosta, ma al tempo stesso femminile, una insomma che riesca a incarnare il suo messaggio. Per me il linguaggio è fondamentale, ma ciò che mi entusiasma in un film non è fare una dichiarazione politica. Preferisco farla emergere dall'umanità dei personaggi, come succede nella vita reale. Le icone che hanno l'età giusta sono molto diverse. Diane Keaton, l'intellettuale che veste alla Garçon, l'infantile dannata Maria Schneider di Ultimo Tango a Parigi, la mamma impegnata Mia Farrow. Ma Lumet non è uno che si arrende e alla fine, provino dopo provino, trova la sua terribile Diana Christensen. Lunghi capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle, sorriso aperto e zigomi disegnati. Stiamo parlando di Faye Dunaway. Faye Dunaway. Quando ho letto quella parte mi sembrava fantascienza. Ho capito subito che volevo farlo. Mi calzava a pennello. E da quando ho interpretato Diana ho iniziato a guardare prima la televisione e poi la vita con occhi diversi. Sono sempre stata grata a Sidney per avermi dato questa possibilità. La disciplina non manca a Faye Dunaway, figlia di un militare dell'esercito degli Stati Uniti che nei suoi numerosi spostamenti si porta dietro tutta la famiglia. E così lei viene alla luce nel 1941 nel tiepido inverno della Florida, ma presto incomincia a cambiare città. Certo, un po' le pesa dover lasciare tutte le volte gli amici a cui fa appena in tempo ad affezionarsi, ma questa vita in apparenza stancante ha per una bambina come lei l'incredibile vantaggio della costante avventura. Texas, Arkansas, Utah. La mamma le ha comprato una grande cartina su cui ogni volta segnano con un pennarello rosso un tragitto che ormai è diventato uno scarabocchio dalle linee fittissime. Lei, di tutti i posti in cui è stata, preferisce quelli in cui fa caldo. Ed è anche per questo se al momento di iscriversi all'università decide di stabilirsi almeno per quel periodo in Florida. Dura poco. Recitare è la sua passione e determinata com'è non ci mette molto a guadagnarsi una borsa di studio per le arti drammatiche a Boston, Massachusetts. È lì che ho fatto le mie prime esperienze in teatro. Ricordo ancora quanto mi impegnavo. Ne avevo fatto il mio obiettivo. Mentre gli altri si divertivano alle feste, io cercavo di non perdermi neanche uno spettacolo, perché ho sempre pensato che dagli altri si può imparare moltissimo. Siamo agli inizi degli anni 60. Lei è bravissima e, come tutti quelli che ce la vogliono fare davvero, ha una sola possibilità: scegliere New York. Al Lincoln Center Repertory Theater, Faye è allieva di Elia Kazan, convinto sostenitore del metodo Stanislavski, che ha già diretto molti dei suoi capolavori. Lui punta molto su di lei, capisce che quella ragazza dalla bellezza austera nasconde l'anima della vera attrice. Infatti, presto arriva il debutto a Broadway in Un uomo per tutte le stagioni. È una sostituzione, per la verità, di una collega più famosa che si è infortunata. Ma come spesso accade, questa è solo una scorciatoia che il destino offre sulla strada del successo. Rimanere in cartellone per anni, nei teatri di Broadway che sono i più famosi ma anche negli altri, significa non smettere quasi mai di lavorare. È una condizione molto particolare, perché da un lato garantisce agli attori un guadagno senza dover continuare a cercare ingaggi. Dall'altro lato, questa possibilità te la toglie, perché fare repliche sera dopo sera significa che non ti rimane tempo per fare altro. C'è chi sceglie questo perché sente che è la sua strada, ma non è certo il caso di Faye, che fin da quando era una bambina è stata abituata alla mobilità. Io volevo fare cinema. Ho sempre voluto farlo. E sono stata fortunata a incontrare chi mi ha detto che potevo farlo. Ero, e sono tuttora, una divoratrice di film. Purtroppo in America per un periodo non è stato facile vedere le produzioni europee. Dopo il boom delle sale d'essai, piano piano, hanno iniziato a chiuderne la maggior parte. La grande occasione arriva con Cominciò per gioco di Elliot Silverstein, che la sceglie dopo averla vista nei panni della protagonista di Hogan's Goat, una produzione off-Broadway. È il 1966. L'anno dopo è già la volta di E venne la notte di Otto Preminger e soprattutto di Gangster Story di Arthur Penn, il film ispirato alla storia di Bonnie e Clyde, nel quale recita a fianco del divo Warren Beatty. This here's Miss Bonnie Parker. Glad to meet you. I'm Clyde Barrett. We robbed banks. Look, I don't want you to worry about nothing. This is gonna be the easiest thing in the world. Your mama could take this bank. Non solo il mondo si accorge finalmente di lei. Ottiene già una nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista. Una grande soddisfazione, certo, anche se la statuetta non arriva. Un destino che la unisce con Sidney Lumet, che nel frattempo a New York gira un film dopo l'altro. E quella statuetta se la sogna la notte. Già da ben prima che mi chiamasse, io ero una grande fan di Sidney. Avevo visto praticamente tutti i suoi film. Quando l'ho incontrato per la prima volta, anche se nemmeno io ero più un esordiente, ho provato quell'imbarazzo che si prova davanti ai miti, a quei modelli che hai sempre stimato da lontano. Senza dubbio l'Oscar è il più importante premio cinematografico del mondo. Placcato in oro 24 carati, 35 centimetri di altezza, di solito nessuno di quelli che ce l'ha prova a venderlo, ma se volesse farlo ne trarrebbe circa $300. La sceneggiatrice Frances Marion ha definito la statuetta un simbolo perfetto dell'industria cinematografica, perché rappresenta un uomo con un corpo forte e atletico che stringe in mano una grossa spada scintillante e a cui è stata tagliata una bella fetta di testa, quella che contiene il cervello. Lumet, quando l'ha letto, naturalmente ha riso, ma non per snobismo, semmai per autoironia, perché sa bene che anche per lui riceverla sarebbe, come per tutti, la consacrazione. 1975, New York. Grande teatro vuoto, dove si stanno svolgendo i provini per Quinto potere. Quelli della produzione sono tutti composti e in silenzio, tranne Lumet, che con le gambe stese su una sedia davanti a lui, continua a sgranocchiare patatine, prendendole a manciate da un sacchetto che appena lo tocchi fa un rumore incredibile. Le attrici le conosce tutte, non vuole puntare su una novellina per un ruolo chiave come quello di Diana Christensen. Ma quando sale sul palco lei, Faye Dunaway, che nel frattempo ha recitato con i più grandi di Hollywood, non ha dubbi. Tanto bella quanto austera, rigida e disciplinata, ma non priva di sex appeal, è perfetta per diventare la giovane, cinica e rampante responsabile dei programmi di un film destinato a fare la storia. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1976. È un grande regista che per tutta la vita si è dedicato alla denuncia civile, Sidney Lumet, ha in mano una sceneggiatura bomba, Quinto potere. Howard Beale, anchorman che non fa più ascolti, viene licenziato con un preavviso di sole 2 settimane, dopo che da 11 anni è un volto fisso dell'emittente. E così lui, senza avvertire nessuno, annuncia in diretta il suo suicidio, che avrà luogo, dice, fra 1 settimana. Scoppia uno scandalo e Beale viene costretto a smentire. Ma lui denuncia il suo licenziamento usando parole grevi e Diana Christensen, giovane e rampante responsabile dei programmi, capisce che questa è la strada giusta per l'audience. Parte un cinico giornale spettacolo messo insieme senza scrupoli da Diana, con il quale Beale diventa l'incazzato profeta dell'etere. Perché poi il pubblico ed altri 62 milioni di americani, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV. Attualmente c'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La TV può creare o distruggere presidenti, papi, primi ministri. La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio. Siamo nel 1976, è bene ricordarlo, per l'incredibile attualità che ha Quinto Potere. Sidney Lumet, per interpretare la spregiudicata Diana Christensen, ha scelto Faye Dunaway, che ha già recitato con molti grandi di Hollywood, ma che con il regista newyorkese riesce a dare il meglio di sé. L'incontro con Sidney mi ha cambiato la vita, come attrice prima di tutto, perché mi ha permesso di recitare come mai avevo fatto prima. Lui metteva in pratica quella che ha sempre definito libertà vigilata, cioè vigilava sugli attori, ma li lasciava sostanzialmente liberi di metterci l'anima. Io l'ho tirata fuori, l'anima, per mettere in scena il lato oscuro di tutti. E questo mi ha cambiata profondamente, anche come donna. Il film è sensazionale. Una parodia dolorosissima e senza limiti del mondo della televisione, con le sue dinamiche che si reggono sull'audience. Per fare ascolto, non ci si ferma davanti a nulla, suggerisce Lumet. Sempre avanti sui tempi, come solo i più grandi artisti sanno essere. Ma non sarebbe riuscito ad esprimere tutta questa amoralità strisciante senza l'aiuto di Faye Dunaway, calata magistralmente in quello che forse è il personaggio più cinico, Diana, immersa così totalmente nel mondo irreale della TV e delle sue mire di carrierista, da parlare di palinsesti e di prospettive delle prossime trasmissioni persino durante i suoi momenti di intimità. Quando il film esce, sconvolge il pubblico. Probabilmente a molti apre gli occhi. Lumet si diverte ad ascoltare, nascosto tra la folla, i commenti di quelli che escono dalla sala, certo che non lo riconoscerà nessuno. Un giochino che funziona anche da esperimento, a dimostrazione del fatto che non importa cosa tu abbia fatto. Sei qualcuno solo se vai in video. Ho fatto 50 di film nella mia carriera, il numero esatto non me lo ricordo, eppure non mi hanno mai fermato per strada. Mai nessuno mi ha riconosciuto, e a me è sempre andata bene così. Per questo non avrei mai sopportato di vivere a Los Angeles. Mi avrebbero salutato soltanto chi cercava un ingaggio. La critica esalta Quinto Potere almeno quanto il pubblico e i premi internazionali incominciano a fioccare. Sidney Lumet spera di essersi meritato finalmente l'Oscar e quando, dopo aver vinto il Golden Globe, viene nominato dall'Academy per la miglior regia, incomincia a fregarsi le mani. Anche questa volta però arriva la delusione. Il destino si prende gioco di lui, o forse meno romanticamente è Hollywood a farlo, per vendicarsi della sua riluttanza a far parte del mondo dorato. Sidney ci rimane male, come al solito per qualche giorno si chiude nel suo appartamento di Manhattan e non vuole parlare con nessuno, ma almeno ha una grande gioia. La migliore attrice protagonista è proprio lei, Faye Dunaway, che non si stancherà mai di ringraziarlo. And the winner is Faye Dunaway in Network. Ero la donna più felice del mondo. Senza Sidney non sarei mai stata quello che sono. Considero questo Oscar nostro, mio e suo insieme, e gli sarò grata per tutta la vita. Faye Dunaway dopo l'Oscar non si ferma un momento. Dal cinema con i più grandi registi alla televisione, ancora oggi è una delle migliori attrici che grande e piccolo schermo abbiano mai avuto. Una stella capace di guadagnarsi l'eternità grazie a un calco della mano nella mitica Walk of Fame di Hollywood. Sidney Lumet si spegne nella sua casa di sempre nel cuore di Manhattan il 9 aprile 2011 per colpa di un linfoma che ha da tempo. Considerato all'unanimità uno dei grandi portavoce del cinema classico moderno americano, ha continuato dopo Quinto Potere con molti altri capolavori. Il Verdetto del 1982 con il duo Newman Mason, Il Mattino Dopo del 1986 con Jane Fonda, fino ad arrivare a Prova a incastrarmi con Vin Diesel del 2005 e Onora il padre e la madre del 2007. Siamo in un guaio. Il peggior guaio immaginabile, te ne rendi conto, vero? Quindi dovrò pensarci io. Non c'è scelta praticamente, ma dovrai fare come ti dico. Niente domande, niente esitazioni. L'ho già fatto una volta. Nel 2005 finalmente è arrivato anche il riconoscimento tanto sognato, l'Oscar, il più grande di tutti, quello alla carriera, per un uomo che non ha mai smesso di lavorare con entusiasmo, che ha sempre messo davanti la denuncia alle piume e ai lustrini e che ha pensato sempre al cinema come una forma di ribellione, con l'umiltà di chi fa cose senza pensare di essere il meglio a priori. Non so da dove viene la mia energia, sono solo grato di averla, è una questione di fortuna. L'incredibile talento di Sidney Lumet è stato una fortuna sua ed è stato una fortuna nostra. Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco. I teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Stiamo seduti a guardare la TV mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.